culo sentendo si beats. Dritta di fianco da dietro, sai quando ti vedo tipo i raggi X. Se non ci sei poi ti chiedo le pics. Come una droga col brivido addosso, ti aspetto di notte da solo in fattanza. Non so se il tuo culo che è ancora più grosso o si è rimpicciolita la stanza. Vestita di nero, le jeans attillati, scuoti e si vedono già i risultati. Sul tapis roulant coi vestiti sudati, come sui tacchi, lo sai quanto spacchi. Dai metti uno di quei completi tigrati. Alzo il volume poi si alzano i gradi. Di notte scoppiamo, stacchiamo anche i quadri. Poi sembra che sono passati dei ladri. Sì che ne ho provata di roba, ma mai come questa. Sì ne ho provata di roba, ma mai come questa. Oh yeah, oh yeah. Sto guardando le tue storie, storie. Non sei come le altre storie. Con te, soli senza paranoie. Oh yeah. È un po' piccola, ma non la cambierei di una virgola. Ogni notte il suo palco che cigola. Baby dimmi che hai preso la pillola. Sì prima o poi la vicina ci ucciderà. Fuori di testa è una vipera. Noi peggio ancora poi siamo del sud. Se litighiamo scoppiamo qua al cinema. Faccio la guerra ma so che ti piace. Che senza guerra non si fa la pace. Ti sfioro i capelli grigio biondo platino. Brillano come un anello Versace. Tu dammi un motivo per toglierti adesso le mani di dosso. Non stringerti i fianchi, dai facciamo tardi. Magari domani ti sposo. Sì che ne ho provata di roba, ma mai come questa. Sì ne ho provata di roba, ma mai come questa. Oh yeah, oh yeah. Sto guardando le tue storie.